grazie Giulio, dai, poi ti direi che l'altro amico. Certo, ciao Franco, ben entrato Roberto. Roberto, che ti mando avanti subito per i saluti. Avanti Roberto, per Franco di sotto. Ciao Gianfra, Gianfra, ti sei già dimenticato il nome. Non c'è problema, ciao, ben sentito Fra. Ciao Roberto, scusa, però ho appena acceso così e non è che ho fatto tanto ascolto, appena acceso, adesso ho la tazza, oggi almeno si poteva uscire, allora ho approfittato un po' salire la tazza per fare le commissioni. No, ti ascolto benissimo, bella chiara, pulita. Ieri c'aveva qualche problemino, ieri no, forse avanti ieri, oggi stai andando perfettamente, è tutto risolto il problemino. No, non eri tu, chi era ieri che c'era? Forse era Benito, scusa, sto confondendo, scusa, sto dicendo fesseria, era Benito avanti ieri. Può essere, perché io non l'ho neanche acceso ieri. Ma ieri mi avanti ieri mi sembra che non l'ho neanche acceso. Come l'ho detto, scusa, un lapsus. Vai Gianfrate per i saluti. Sì, ciao Franco, ben ascoltato. Sì, rilancio subito il micro a Giulio. Giulio, volevo fare una prova su, però non importa, sto facendo un monitoraggio. Riprendi Giulio. Puoi parlare, guarda, io sono sempre d'ascolto anche lì, per cui non c'è problema, o già fra, non c'è problema veramente. Sì. Cosa dirti? Fra, vabbè, eravamo su quella frequenza che tu sai, Franco, poc'anzi, perché c'era il solito disturbatore, per cui adesso lo sai, in caso di necessità, dove eravamo l'altro giorno, arrivi tranquillamente anche tu. La frequenza ce l'hai, per cui non c'è problema. Riprendi, Fra. Capo, non sai che non me la ricordo giù. Vabbè, se non te la ricordi, già te la do io di nuovo per telefono, così evitiamo interferenze. Capo, sì, va bene, va bene. Almeno mi rinfreschi la memoria. Non me la ricordo dove eravamo l'altro giorno. Ok, dopo già ti telefono, se non ti mando magari su WhatsApp il messaggio. Va bene, riprendi, vabbè. Giù, ma è in AM o FM questa frequenza vostra? Sì, in FM. Ho capito, poi vediamo un po', quando c'è tempo me lo dirai, così, molte volte è così, ma vedo che adesso si è calmata la situazione, dai. Speriamo bene, dai, che si sia stufato e non arrechi di turba nessuno. Ok, di nuovo a te Gianfra. Sì, ok, volevo dire, no, sì, ma io ci credo poco, questo la prende l'abitudine, cioè. Però già l'importante è che ci siano sempre i sistemi di, per ripiegare alla faccia sua. C'era adesso, parlando di ricercare le persone, c'era un tipo qua vicino, stava vendendo un radiogoniometro, però da sistemare. Bello, veramente bello, anche a un prezzo ragionevole. Ci stavo pensando, ho detto, ma lasciamo perdere. Vai qua. Capo. Perché c'era un luogo portante? C'era portante, ti posso dire, anche molto forte, annientava tutti qua. L'unico che passava era Gianfranco, vabbè, non c'era ancora Antonio, perché era un segnale quasi 9:30, 9:25 è abbondante e quando metteva questo fischio sotto dava fastidio a tutti. Figurati anche Claudio qua, vabbè, si è spostato di abitazione, stava uscendo con tre ratte Claudio, però anche a lui gli ha dato mattana come segnale. Allora è vicino a voi, qualcuno che è vicino a voi che magari si ha vergogna di entrare in frequenza, allora si diverte così. Adesso non c'è più, fortunatamente, meglio così, dai, perché qualcuno si stava troppo nervosendo, io dico, quando succede, continuiamo un pochettino, sono alla fine, spegniamo tutto, baracca e burattini, e ci salutiamo, e basta, e poi la prossima volta, prima o poi si stancherà, dai. Ok, dai, intanto nel frattempo sto parlando anche su quella frequenza, e dunque mi stai ascoltando, lo sto facendo per farti sentire la prova, dai, ok, sacco, sì, vabbè, certo, è così. Ok, d'accordo, mi ha dato la risposta, d'accordo Gianfra, tutto ok. Avanti Franco di sorso. Certo. Caspita, però nel 2021 è ancora mettiamo la portante, tutta gente adulta, non ci sono neanche bambini. Ripeto, è solo una cosa giù, mi sono andato anche stamattina, ha dato la colpa a una persona che non c'entra mai. Cosa gli vuoi fare? Un bambino, non è che puoi dire più di tanto, ma se è una persona adulta, insomma, la cosa è, comincia a essere scocciante. Però tutto sommato noi abbiamo la soluzione sempre, fra, non c'è problema. Per cui anche poc'anzi ho appena dato un messaggio insieme a questa frequenza, ho parlato anche dell'altra frequenza, due microfoni, uno insieme all'altro, e mi ha risposto anche Gianfranco, per cui non c'è problema. Riprendi Gianfranco, mi hai sentito bene comunque nell'altra frequenza, ho capito. Sì, ok. No, è solo sull'altro apparecchio che ho dei problemi. Forse devo ritoccare qualche cosa. Va bene, io mi sono ricordato che devo andare a cena, ogni tanto perlomeno bisogna farla. Quindi vi saluto, buon proseguimento, e alle prossime, dai, vediamo un po' se ci riusciamo un po' a liberarci di questo elemento. Mi hai sentito, ciao Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, anche io tra qualche minutino stacco giù, mandami questa famosa frequenza, mandami la WhatsApp, così se dovesse capitare sappiamo dove dobbiamo andare. Di nuovo Giulio. Ok, roba è senz'altro, dai. Intanto ciao Gianfranco, dai, ci saluto, salutoni. Ciao anche a Marco, che ci siamo sentiti sull'altra frequenza, per cui ciao Marco, anch'io saluto perché devo scendere per cena. Per cui anche tu sei Anto, almeno per me. Vabbè, dai, ti saluto Robert, io appunto chiudo, dopo ti mando la frequenza, ok? Ciao Robert, riprendi pure per i saluti e poi chiudo definitivamente, dai. Ehi, anche io, mi dispiace che è entrato San Antonio, anche io adesso vado a mangiare, sono già le 8. Ciao Giù, ben sentito, ci sentiamo alle prossime. Avanti Antonio, che poi passerà il mic a coso, a Franco di Sorso. Io vi saluto, curati da parte mia, vado a mangiare, non so se dopo ne ho voglia, entro dopo, se no ci sentiamo magari domani o quando coincide. Vai Antonio. Capo, vai, saluto a tutti, saluto a te Giulio e a te anche Roberto. Un attimo che saluto Franco, ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, dai, e dopo già ti mando di nuovo la frequenza su WhatsApp. Ciao Fra, alle prossime, ciao a tu, ci sentiamo, dai, ok, chiudo. Ciao a tutti, anch'io chiudo. Vi dimenticate sempre di me, mi avete abbandonato. Ok, dai, ciao Giulio, ciao Roberto, buona carica, buon tutto, te la ascoltiamo le prossime. Ciao anche a Natalino, che l'ha ascoltato, anche io sto chiudendo perché stanno chiamando a mangiare. E ciao Antonio, avanti Antonio. Ma che c'è Franco di Sorso, bel segnale. Ciao, ci sentiamo, ciao, chiudo. Natalino con cuomo, è per quello che non lo salutate. Cappa, ma stavo dicendo, ma che è Franco di Sorso? Cappa, che sono io. Ah, senti, sei combinato, sta arrivando bene qua. Niente, ma avevo solo messo a posto l'antenna, perché non stava funzionando bene, e adesso è ritornata a rinascere. Ciao Franco, mi ascolti? Sì. Cappa che ti ascolto, Santiago 8 e Radio 5. Ci sta arrivando 9:20 da me. Luca Buggioni intanto è cuocuomane. Allora, Sassari, nessun nuovo caso, scendono ancora i positivi, che bello. Comunque il coprifuoco è alle 11 adesso, poi dal 21 giugno senza coprifuoco siamo. Ciao Luca, ci ascoltiamo, ciao a tutti. Ciao Fra, salutoni, buona cena, buon tutto, buona carica, ciao. Cappa, ciao ciao. Comunque qua da Sorso sì, Santiago 9. È buono. Cappa cappa, va bene, dai, anch'io vi saluto, ci sentiamo dopo, Anto, ciao. Ciao Luca, e guarda che c'ha mente, una roba da furia. C'è qualcuno, c'è rimasto qualcuno? Natalino! Yeah. Romero. Eia, buonasera. Aspetta che spiego, va bene tu? Questa qui l'avevo, c'è un coso che l'avevo fatto per un cazzo di giamma che su Halloween. Non ho capito, ma l'avevi fatto? Una festa di Halloween, questa musica. Questa è, credo sia spagnola, la tipa. Sulla base di una kizomba, dai, un ballo che si usava qualche anno fa. Si usa adesso. Ma non è questa, no? Questa qua. Aspetta che guardo, guarda come si chiama, aspetta. Sì, mi sembra la K, mi sembra. Aspetta, Vieni lì già. Ma lo dici che sono quasi di genere. Come quasi? Cosa? Perché quasi? Perché me ne intengo di musica. E quindi sei un DJ, non quasi, ragazzi, se ti piace. Vuoi fare qualche tipo animazione, dai, fai animatore nelle feste, qualche serata, la fai? Sì, sì, la faccio. A te. E questo cos'è? Reggaeton? Ehi, reggaeton è anche quella là, un pochettino mezzo là. E quella un po' più lenta, infatti è più kizomba che reggaeton. Mi piace molto la base, anche, vabbè, anche la voce è bella. Scappa, e chi c'ha questa? Questa è da più da sballo, mi dà da giovanotti, è giovanotte, da. Una cosa giovanotte, ma volevo finire con queste minchiate. Che cazzo giovanotte, in mezzo, balla, puttidini, con esce, ne esce. Sì, vabbè, però alle serate c'è la musica che mettono per i ragazzi, quella lì. Io a volte faccio serate con per latinoamericano, va? E quindi come finivano verso le 11 mezzanotte, la 1, iniziavano loro la musica dei giovani, ed era quella, eh? Sì, no, vabbè, io ascolto un po' di tutto, anche perché io andavo in discoteca, capito? E tuttora se rimetto le cose a posto ci rivado in discoteca. Non me la fotti nuda. No, anche io vado regolarmente tutti i fine settimana, almeno una volta, o il sabato, o in genere il sabato, perché purtroppo io lavoro il sabato, quindi venerdì notte mi veniva un po' male. Poi domani sei in coma, invece il sabato, domenica, non lavoro in genere, e quindi sì, hai la possibilità di riprenderti, da. Ho capito, chissà che ti vuoi dare giù vicino. Cosa ballavi, la salsa, la salsa, la baciata, quella di balli lì? Ballare è una parola seria. E qualcosa mi butta in mezzo, ma più baciata, poi nelle salsa quasi niente. Qualche zona, qualche passo. E non ho molta memoria per memorizzare i passi. E portate uno sei buona, a come tu mi vuoi, via, e balla. E poi mi piacciono le serate che fanno lì a Ruscello, anni 70, 80, 90, quelle ci sono quasi sempre. Ciappa. E vabbè. E adesso. Sì, non me già. Cioè, però. Non è male la musica di adesso. Cioè, io. Vabbè, io la metto perché mi piace. Poi io ballavo insieme ai ragazzi più giovani di me, di 20 anni, io ne ho 36. E non me la fatti nuda, mi butto in mezzo, non sono con mezzo gotto, da me ancora biccio. Io ne ho 20 in più però. Ma guarda che c'era gente che della tua età, me. No, anch'io no, non mi tiro indietro, mi metto in mezzo anch'io, non ho timore. Lo conosce a Stella, lo batticcere? Chi? A Ferdinando. No, non mi dice niente. Magari lo conosco di vista. Arreggiate, cazzo. Pari a... L'avrebbero detto la vaffera. Però lui si metteva in mezzo e si muoveva. No, anche io già mi butto, poi quando sei in gruppo ti diverti ancora di più, magari un bicchierino di più, ti disinibisci un po'. Ragazzi, sono tutti, è importante babà. Allora, socializzare, divertirsi. Adesso mi trovo fuori, ritorneremo, speriamo, dai. Ne ho anche voglia, ne ho. Ho voglia anche di farmi una serata, voglia. E allora, dai, quando diventeremo bianchi, ci vogliamo fare addirittura senza coprifuoco, qua sta bene, ma parla di giugno, Scappa. Se conosci qualcuno la facciamo. Ah, parla noi, no, io in genere vado o dai maestri dove va la scuola di ballo, dai. In genere loro organizzano le serate anche, a volte si mangia pure e poi si balla, già sai come funziona, no? Certo, non lo so, ma conosci a Franco Tanda? Ma io conosco Franco, quello di, come si chiama? Pintus? Dove? Con Raffaella delle Punti, c'è una scuola di ballo delle Punti, poi Pasquale e Paola, questi qua, dai. Ma dica, a Franco Tanda lo conosci? Che è sempre nelle scuole di ballo lì. E già lo conosci, cara, non ti preoccupare. È che non ho il tuo numero, ti avrei fatto la foto oggi, dovrebbe essere, ah sì, è lui. Meno male, di vista ci conosciamo tutti, perché l'ambiente è quello, Mica lavora, qualche volta parla di ambulanza, lavora anche con noi. Non so, c'è quello di, come si chiama, del pompa iniettori, che adesso è grande, ci saranno i figli al posto suo. Quello c'è sempre alle feste? No, non è lui, no. Mica c'è, lavorava al rifornitore qua a Santa Maria. Ripeto, se non lo vedo, no. Non ho molta memoria, nei nomi. Buonasera anche a lei. Ho lavorato la vita qua da Santoro in Corso Trinità a me. Se lo vedi lo conosci, mica, è ballerino Eddo. Buonasera, sono entrato. Sicuramente li conosco, ripeto, ormai l'ambiente, bene o male, ci conosciamo tutti, almeno di vista, dai, poi i nomi non me li ricordo. Capo, avanti tu. Dimmi la prossima volta, la metti in palidoio, di filmarsi a... quando una rotatoria. Che stamattina giù ti picca in pieno. Ma dove? A Ponte Nuovo. Non ci siamo passati noi lì, no? Ma cosa no? Ma stai scherzando? Ti giù il tuo e ti butto di macchina con letto. No, a Ponte Nuovo, non ci siamo saliti noi, no? Sì. E dove? Non è successo una consegna in quella zona. Eravate voi, tanto. Siete passati da Ponte Nuovo, via Sulcis e Ponte Nuovo avete fatto. No, non ci siamo andati noi, no? Tanto, ti giù il tuo e ti butto di macchina, non so come acque. Ma no, Gino, oggi non siamo andati a nessuna parte. Fai memoria, va. Oh, ma sto scherzando cosa? Ti sto dicendo che oggi non ci siamo scesi lì. Ieri siamo andati. Guarda, sicuro no al 100%, al 1000% eravate voi. Tanto ho visto io in macchina sotto con lui, con robusto. Ma tanto, con... come si chiama la macchina? Una macchina, non c'avete più il motocarro, la... vabbè, comunque eravate voi, guarda, tranquillo, fidati. Fai memoria. Buona strada. Esatto, oggi una tipica in pieno. No, ma non siamo andati noi in quella zona. Chi abbiamo portato? No. Però guarda, proprio stamattina non mi ricordo di aver portato bombole lì. Ah, sono sicuro al 1000% che c'eri tu, ti ho visto io. Non siamo confirmati, ti dato dritto. Oggi una tipica in pieno. Guarda che stai sbagliando, noi in quella zona non ci siamo scesi. Se no lo telefoneggio a mamme. Chiamalo, va, chiamalo. Ti giuro che non ci siamo andati noi in quella zona. Ci siamo andati avanti ieri che siamo andati in via Pigliaro. Cioè, o ieri. No, ieri no. Siamo andati venerdì forse. Ma stamattina non ci siamo andati noi lì. E io ti dico di sì, a tu. Eravate voi, ti ho visto io, sono girato a vedere. Cazzo, non c'eravate bombole sopra, io non ho visto bombole. No, la bombola è già vera, mia. È bucate. Comunque eravate voi. Siete usciti dal come si chiama? Lì, dalla precedenza di via Sucis. No, non me lo ricordo io la verità, io sta storia. Allora, più o meno erano le, fammi pensare, 10:30, 11 circa. Non me ne ammento, la verità non me lo ricordo adesso. Via, avanti fra, ripeti. Ma che a me stasera mi è successo uno, praticamente dalla parte, si è messo sulla parte centrale, no? Venendo dagli punti, e poi voleva tagliare la strada per entrare a da Bricomen. Tiriti la destra, una destra ti viene subito, non rompe le balle nessuno, no, anche a voce si è messo. E beh, se anche ci macchi dell'operaio di Valerio, mi. No, eri tu, Antu, ti ho visto io, mi sono girato, eri tu, sei un tema, che voglio che hai da vista, cazzo, Antu, adesso con rincoglioni domani su Ubuntu. Non me lo ricordo di esserci andato in quella zona, non me lo ammetto proprio. Un lapsus, Antu. Ma di fatto, lo botti nuovo, perché non siamo a per quanto girando noi, uscendo lui, non siamo a confirmato, per quanto si abbugava il Dabs. Il tuo collega non è robusto, lo metti in palindoio. No, non mi ricordo io, non mi ricordo di esserci andato in quella zona. Tanto, se molto male a ricordare, se molto male, Non ammetto io che la giudice di te. Ah, non mi ricordo, cazzo, non mi ricordo adesso. Che cazzo ci abbiamo portato lì, beh? Boh, qualcuno l'avete portato, sicuramente. Ah, beh, domani ve lo domando. Che abba, devo vedere il coso, devo vedere. Andato. Allora, sono andato lì in via... Fatto via Barzini, sono andato poi in un Assurugo. Poi sono salito in via Lume Sole. Poi sono andato... Cazzo, ma quella zona non me la ricordo proprio, lo sai. Ci ho visto io, tu sei ma mi cava in vento i cosi. Ci ho visto, ma non al 100%, non al 1000%, al 2000%, di tu e lui. Poi sono andato lì in Viale Mameli. Sono andato. Se no è cazzo sono. Anche poi da Viale Mameli siamo andati a caricare, quindi non è possibile. Cavolo. Ah, sai che mi sei buono in difficoltà. Tu, non ho giù di zeni, fidati di me. E tu chiamalo lì, siamo passati al ponte nuovo stamattina, prova a chiamarlo. Dai, non sono l'unico allora a prendere colpi di memoria, dai. Vabbè, cavolo con niente. Via, a Claudio. Ciao, ciao, ciao, solo per un saluto. È vergognoso, cazzo, tutta la sera in ascolto, tutta la sera c'è portante. Che vergogna, che schifo, eh. C'era portante stasera? Allora, portante a tutto andare. Anche l'altra volta? Ogni tanto. Ogni tanto riemerge. Tutto bene, Claudio? Benissimo, fra, grazie. Tutto bene. No, ma a me è passata tutta la fantasia, guarda, sinceramente. Vi ascolto, entro a salutarvi, ma non partecipo più a niente. Ti saluto, fra, saluta Anna. È a casa. Ciao anche Antonio, ciao a Luca, dai. Ciao, ciao. Grazie altrettanto, lo fai tu. Saluta tutta la famiglia. E che dove fare? Poi quando senti certe cavolate, io già anche io sentendo poco, tutta la settimana non c'ero perché ero ad Alghero, in turno ad Alghero, quindi zero completamente. Boh, boh. No, io la radio io le accendo perché mi piace ascoltare, però non c'è più quella voglia, lascia perdere. Dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao ciao. Già è vero già è così che stavo sono sceso lì punte e poi stavo salendo da lì perché dovevo andare in via Barzini. Già è così già. Vediamo se sono rientrati gli altri. Luca, ci sei? Ehi, ciao Cla, scusate un attimino, dai, riparate voi, riprendo subito. Ehi capo, dai, sono rientrato. Già è così già Lu, che ne sono guardato da ribunte, da poi dovevo andare anche in via Barzini. E sono passati da anch'io. Tu sei un disegnato, mica me li invento i cosi. Ma lo sicuro, te l'ho detto, non a 1000 per 1000, a 2000 per 2000. Avanti fra. Ecco, vabbè, scusa, poi se vi conoscete, vi conoscete, dai. Cacciamo un voto di memoria. Buonasera Claudio, buonasera. Ciao, ciao a tu, buon proseguo, ciao, ciao. Cazzo è buono che bravo, sì. Cazzo, intanto mi è passata tutta la fantasia, ma è in radio. Cartonieri attende, è portante, portante. Guarda, devo fare un lavoro sul muro proprio dove c'è la lanterna, mi lavoro e non è più. Ciao. A voi. putidine, a trabbigli troppo con il suo scemo. A di che mi chiama a palla, esce con una cosa, un bicicco, cazzo, tanto pugni a bocca, la parola che ne avvini di girarmi le cattole. Non ci sto neanche più pensando a quel scemo. Ma è brutto, beh, non si può, non si può. Se uno vuole fare due chiacchiere non si può, veramente è schifoso, vai. Ciao ragazzi, divertitela, vai Franco. Ma ce l'aveva con qualcuno in particolare sempre, no? È un malato di menti, eh. Ti sto dicendo che il giorno che veramente mi trova con le palle girate e gli faccio uno scherzo, che manco quattro accusa, ma veramente. Gli posso chissà boccolatura, che lui la portante non la metterà mai più. Te lo dico io. Adesso siamo un bel po' mica che sta rompendo questo chiamiamo Cristiano, dai. Ha detto che voi vostra la buffonatura, chissà, non ci credete voi. Piano piano lo so che organizzate, lo so, qua è dove vostra la buffonatura, le vostre. Ma portate non i buoni in più, Edo, te lo dice Antonio. Ce l'hai anche in macchina la radio? Sì. Sto organizzando il gioco. Ah, non ne hai nel mezzo di lavoro, dai. E chi l'ha detto che non ce la possa mettere? No, infatti tutto si può fare, anche io la posso punire. Anzi, io ce l'ho, come si chiama? La base magnetica. Se vuoi la posso attaccare, anche se non attacca bene perché c'ha le righe sopra il tetto. Ho paura che si stacchi. Ci ricordi sempre che io sono se tutti i giorni in giro sono. Tutti quanti i santi maniti. Attenzione, non mi provocheggia perché se non questi ghiaccio da voi sono cavoli gioia, chi non guarda in faccia a nessuno, Cazzo mio. Viraggio durante un garage, viraggio me. Ancora devo provare con qualcuno ancora. Cioè se lo trovo in macchina li basso direttamente, non sto lì a dirti ma però ma per qua vado pam pam pam pam, dico tu chi sa giusta, poi come lo faccio e poi me ne vado. A me non me ne affutti nulla, non hai compreso? Cioè a me non me ne frega per più niente, forse pure un demonio, a me non me ne affutti nulla. Oh yeah. Ce n'è. Non sono mai mancati quelli, porca miseria. Chiappa, ma poi io non me ne sto neanche preoccupando qua. Ya, quando si può entrare si entra. E no, che tra me e te, tra Luca e cose, non mi fa di nulla, può stare anche fino all'indomani. Se mi rompo le cattole, attacco Guido Gosio e sta due zento, poi voglio vedere se mi buono ancora abbordante. Ah no, attacco il Galashnikov. E no, e se continua ancora so, pongo una santenna in brassa, pongo, e no, che non c'è che non rubo su va, pongo una santenna in brassa, chi su cosa attaccato, e poi è importante tu, esci mi auguro. E ne tieni di poca importanza, per carità, ma... Cappa, ma infatti non bisogna darle importanza, perché tanto è un maraddo. Sicuramente che io non mi sbaglio mai, Anzu, io non mi sbaglio mai, io non dico niente. Poi il giorno che sarà, no, lo faccio il nome, per il momento non dico nulla, perché ho già visto tutto la maladam, fidati di me. A buon intenditore poche parole. Ma infatti, dai, quello che hai visto tu ho visto pure io, Lu. Non è che le cose cambiano. Ci credi voi, Buetto, vabbè. Comunque ne ho visto un paio di antenne qua in zona mia. Ho visto una lì all'angolo con via Pascoli, con via Montello. Sopra la banca, se non sbaglio, no? Ah, guarda, quella era amatoriale. Poi un'altra dove l'ho vista? Da Sacro Cuore andando verso Maltagliati, anche lì ne ho visto un'altra di antenna. Cappa, ma non bisogna pigliarsi la, non bisogna pigliarsi assolutamente, no? Cioè, anche uno deve togliere anche le palle, se uno vi dà fastidio, pigliamo un pezzo di roccio, di cosa, la macchina, una taglia portaggio, ha pagato il di quattro capiotti e tutto basso in chive, molto ci vuole. Ma, c'è un pezzo che qui dalla parte della ragione passi dalla parte del torto. Sarà il torto suo quanto mi ne ha futti, ho detto che a me non mi ha futti nulla, ho detto che a me non me ne frega niente. Cioè. Cioè, se io veramente becco come te, due puntano in radio, poi il secondo sono cavoli suoi. Ma un'idea già me la son già fatta, non ti preoccupare, che sicuramente stai parlando con tutti i canti di cose, non ce lo toglie nessuno dalla testa, non ti preoccupare. Ma che m'appigli? Perché a me da poco mi hanno fatto vedere un segnale, mi hanno mandato una foto, mi hanno mandato. E non ci piove, eh. L'hai già inquadrato, dai. Ma non so io che cosa, a me me le mandano le cose. Quindi ho capito. Cioè, non è che sono io, no, a me me le mandano Antu, mia barita. No, so io non. Non arriva fortissimo qua, però insomma, qualcuno me lo disturba, qualcuno che magari fuori Sassari un po' me lo disturba. Non ti preoccupare che le pecore mie le conosco. Fui anche perché io vabbè, l'antenna non ce l'ho sul tetto, quindi no, non è che arrivino segnaloni qua, capito? Scappa. Sì, ma la devi finire di Baruccia Bidone, la devi finire. Adesso basta, c'è chi su Yugo si sta già sporcando. Sì, no, ripeto, è già un bel po' che. È già un bel po' che sta disturbando, caspita. Perché non li finisce tutto? Perché non c'è Paravolta Giulia, Barguruzuio? Appunto, ci stiamo veramente arrivando, uno non può distruggersi tutto quello che ha costruito negli anni per un pezzo di merda. Ah, non te ne vai, vai, ci me la mezzo, vai. A volte accendi così qualche minuto per farti due chiacchiere così spensierate e t'acciappi che sta niente così. Ma non è una cosa sbagliata, uno non può, cioè uno deve togliere le palle sotto, devi cavarne le balle e dire adesso mi hai rotto le palle, adesso non moduli più, basta, è finito, quello bisogna fare, colmare se è il buonismo ha sempre rovinato tutto il buonismo. Notte break, bene, buonasera Nicola Lupo Grigio, non so se ti sentono gli amici, avanti. Ehi, lo sento a malapena perché non ho QRM. Ciao Nicola, sono Franco. Come va? E perché? Aia, no, io ho la prima il 20 devo andare, la prima dose. Però ancora non ti hai messo l'antenna sul tetto, però, Dai, almeno riesco a sentirti come si deve, dai. Ci farà piacere sicuramente. Avanti a tu. Capa, non mi arrivi male però, la verità. Capa, dove è Corso Vico? Qua c'è Santiago 7. La radio si sente abbastanza. Luca, lo senti Lupo Grigio? Luca? E si è allontanato. No, qua arriva basso, ma ripeto, anche per colpa mia che la mia antenna è bassa. Sicuramente se la mette anche lui sul tetto migliorerà la grande, perché siamo vicini come distanza, siamo molto vicini. Kappa, dai, ti saluto un po' grigio. Dai, ci ha fatto piacere ascoltarti dopo tanto, è un po' che non ti sentivo. Fa piacere che rimani in frequenza, quindi ci facciamo con una chiacchierata ogni tanto. Dai, alle prossime e in bocca al lupo per tutto. Avanti, Gantù. Kappa. Non mi arriva male la verità, non Santiago 7, lo sento, diciamo, per essere comportabile tanto. Si vuol dire che c'è male, vabbè tu c'è l'antenna in alto, c'è qualche canale che tu lo senti bene, io qui arriva un segnale di 1, la radio 2-3, non di più, però l'ho sempre ascoltato così, sicuramente è una zona negativa, perché io più o meno so anche da dove modula, è un bel coperto rispetto a me, capito? Sì. No, qua già arriva la verità. Antenna in alto vuol dire molto, riesce a ricevere meglio sicuramente, anche piccoli segnali. Kappa. Poi vedi, adesso non ho neanche 0 di QRM, neanche si muove l'ago. Anche io stasera sono buono. E ce l'hai a 0 la lancetta? No, a 0 no, ma a 2 sì. Queste antenne sono molto silenziose, poi questo è tipo Game Master, sono molto silenziose. Sì, però sono sorgi che la banda, so. Sì, vabbè, questa è fatta in casa, però va bene. Forse forse perde un po' di ricezione, ma magari perché il fatto perché è attaccata alla facciata, sarà per quello. Trasmette meglio di ricevere, secondo me. Cappa. No, già va bene, dai. Sono pochi due soldi che si antenne, c'è proprio un'altra frequenza e non risuonano tanto bene. No, hanno una banda passante molto larga, perché vanno dai 25 ai 30 tranquillamente, però sì, è sempre meglio avere un'antenna dedicata per quella frequenza che ti serve, piuttosto che avere un'antenna che copre tanto, una larghezza di banda ampia, dai. Questa non è male, questa che ho io. Tu c'hai la Ringo, no? Qua c'hai. Cappa, è puro tutti i grittigheggiani. A me funziona bene. Ma quando l'antenna la piatti bene, a regola d'arte, un bel palo, libera, malagana e ci mette. Non lo so già, tutti ditini. Uno è stazionare, ma così muove, è mala grande, è roba potenza. No, già va bene, ripeto. Poi la posizione è quella che è, in base a quella posizione che hai, lei spara. Però già si difende, dai. Cappa. Non posso dire che va bene. Io certi segnali, quelli con la mantova non li ascoltano, io sì. Non è che è, però. Perché sei anche la mantova, no? No, negativo. Ho detto che io ascolto certi segnali che certi non ascoltano. Ma le antenne vanno provate nella stessa zona, stessa altezza più o meno. Se già cambi zona e cambia tutto. Non lo so, prova a punire la barazzinata che viene via con la malfa. Adesso chiedo se mi fanno mettere l'antenna al palazzo giallo di Magliona. Mi manda l'altra dice di delle foglie cellulari e così li entrano nei circuiti. Ti dà battimenti. No, però adesso è un apparato abbastanza selettivo, quindi prende i pochi colpi, prende. Ma il ponte è pericoloso. Sì. Una volta mi ricordo un ragazzo, c'era un bel impianto, insomma, con lineare in macchina, sono passato vicino a Radio Holiday. Mentre parlavo, sicuramente la frequenza è entrata negli apparecchi di Radio Holiday, e c'era un mio amico che era a Sentino, alla Pelosa, dice mi ha sentito nella radio, capito? Perché Radio Holiday ha trasmesso le mie interferenze e le ha trasmesse via etere, quindi le hanno sentite in radio. La via Grazioletta era. Sì, ero alla fine di via Grazioletta, dove c'era il Torre Sano, dove tra io, la zona lì. Sì, ho capito. Ma ti parlo di più di 40 anni fa. Radio Holiday sparava un sacco di potenza, forse anche di più di quella che si poteva sparare, dai. Radio Holiday già, brava. Ce n'era anche una latte dolce, se te lo ricordi, Radio Oasi. Ce n'era anche una più giù di radio, fra, a metà via Castelletta, salendo sulla destra. Sì, ce n'erano radio prima, Adesso invece cosa fanno? Trasmettono con poca potenza verso il ripetitore, non so, lo mettono a Monte Oro, e poi da Monte Oro da lì sparano di brutto, capito? Ma per esempio Radio Venere, ti faccio un esempio, scendendo la carica non si sente quasi più, la domenica che mettono la musica sassarese. Ma che vedi, M2O che sembra forte, arrivi lì a Olmedo già non se lo sente di più. Quello lì trasmette tramite Monte Oro, punta l'antenna e trasmette lì. Sì, c'è il ripetitore lì che prende il segnale e fa la ponte praticamente, dai. Tipo i ripetitori che usiamo per il 144 MHz, quella 440, la roba lì, dai. Forse era meglio prima, come era prima, antenna libera, che pompava molto di più forse. Hanno allontanato però queste potenze dalla città, capito? Meglio metterle lontani dalla gente, dal popolo, dalla popolazione. Prima cioè, mi pare che era il minimo consentito, non mi ricordo se era 500 o 1 kW. Qua non lo so, ma molti sparavano fortissimi. Non parliamo poi di Radio Vaticano, ormai la rete, roba di potenza che usavano. Ah no, quelli erano esagerati, 1 milione di kilowatt mi pare. No, insomma, mettevi la biancheria stesa, in 2 minuti era già asciutta. Microonda, eh? No, era una battuta, però era una fuorilegge di brutto. Esce infatti a nuda. Esce pure branciato, dice. Radio Vaticana è nota per queste cose, cioè, ma in AM trasmetteva un bel forte. No, in AM non lo so, lì erano in FM. E vabbè, ho avuto anche degli amici che avevano una radio privata lì a Alghero, la radio Alghero 101. Una volta abbiamo messo anche il traliccio sopra questo condominio, un traliccio fatto in casa, dai. E trasmetteva prima le partite del Mariotti, facevano dei miracoli per trasmettere, ragazzi, con dei baracchini trasmettevano e poi da lì lo mandavano in onda. Cosa è il intreccio? Ci si arrangiava prima, no? Mica c'erano i telefonini, quindi si usavano i baracchini e faceva la telecronaca dal Mariotti, dallo stadio, e col baracchino la mandava in radio, capito? Poi dalla radio la trasmettevano in onda, capito? Se magari abbiamo un'antenna, cosa facevano? Sì, c'era l'antenna, c'era il Mariotti che dove c'era lui la radio all'ingresso di Alghero, da. E qui va così, roba per poveri, mi. Non so, si bruciavano in finale. No. Col baracchino facevano solo la telecronaca, trasmetteva la telecronaca verso la radio. Poi dalla radio, da lì c'erano gli altri amplificatori, da lì trasmettevano su 101 MHz. Ma non era la 27, non trasmetteva con uno di questi? No, non so spiegato. Il baracchino si serviva solo per la telecronaca, capito? Mandava la telecronaca verso la radio. Poi la radio riceveva segnale CB e lo trasmetteva in altre frequenze, capito? Non frequenza CB. Il CB serviva solo per trasmettere la telecronaca. Non so, se non si avvicinava lì, cazzo, lo sentiva nel baracchino. Ragazzi, è successo, ho avuto un incidente lì a Ottava stasera, qualche elicottero ha atterrato. È messo male quel ragazzo in moto? Eh sì, poi è un casino che bah, non si capisce più niente. Queste moto a me piacciono un sacco, ma musica già non è pure. Anche io che ricordo ce l'ho ancora. Vabbè. Ci vuoi fare, purtroppo, un casino. Speriamo che non muoia, poverino. E poi bisogna vedere di chi è la colpa anche. Parla che ha perso il controllo lui della moto, parla, è andato a urtare contro una macchina. No, lì è morto. Non lo so, io ho visto la moto in terra su Facebook, ho visto la notizia. Ho capito che un ragazzo che era in moto è andato a sbattere contro una macchina. Poi va bene, all'inizio un sacco di fessini le scrivono. Fatta è morta. Oh, quindi era una donna questa qua, che era in moto. Sì, si chiamava Ines. Eppure sembrava una moto, vabbè, anche la donna si chiamava in moto. Era una moto grossa, mi. Sì. Vediamo se trovo la notizia perché è apparsa qualche ora fa. Oh, non la trovo più adesso, blu. Allora si arrangiava come meglio si poteva, erano tempi, però c'era molto più consumismo, c'era molte più cose, molto più lavoro. E prima queste cose le facevi proprio per passione, perché ci mettevi tutto del tuo, i soldi tuoi. Era così, una passione, basta, tra amici. Questa la conoscevo, quella che è morta, poverina. Ines Mattino. Mattino? Sì, c'è su Facebook anche, poverina. Oh, che strano, io avevo capito tutta un'altra cosa, figurati. E c'è scritto qua, buon viaggio, Lena, Ines Mattino. Bravo. Mi ha dato se si dica che cosa. La moto musicheggia a me. La moto purtroppo non è bisogna stare attenti. Sono entrato nel profilo di lei adesso, sto guardando. Vuol dire, il destino è quello mio, ognuno di noi ha il suo destino, chi più, chi meno. Hai ragione, cade dalla moto grave una 35enne cesarese. In seguito un incidente stradale sulla 131, è così già, una donna è avuto intorno alle ore 19, al tese di ottava. La donna era a bordo di una Kawasaki Z750, mentre era in fase di sorpasso ha urtato contro l'angolo posteriore di una Opel Mokka, capito? E ha perso il controllo. So così feso. Io vorrei molto rilasciare di stare. Sono belle, sì, d'estate specialmente, però quando cadi ti lascia i segni. È pericolosa anche la macchina, però qualcosa di protezione in più ce l'hai, da, attorno. Guarda, dove non me la prendono, sai cosa mi piglio? Un motorino 50 e basta. Non mi piglio manco una patente di chi si è morto, chi se la piglia è luce. Ma tanto da... Per quello che ci serve la moto per i piccoli spostamenti. Qui si vede l'elicottero che sta atterrando in mezzo alla 131 lì, andando a ottava, siamo lì vicino a Marini, sembra lì l'incidente. Cappa. Oh, chi si morto la carezza. E uno che conosco aveva l'R1, la Yamaha. Ha perso Milza, ha perso tutto, e gli è andata bene. Quanto poi ci lascia le penne pure. Uno che conosceva me Matese, non ne aggiungava mai. Alla fine Guadarrai l'ha aspettato in due. Uno che conoscevamo. E questo è rimasto attaccato a un palo, praticamente. Quei pali che sono lungo la strada, quindi segnalettici. Piegato attorno al palo è rimasto. Ma mia madre che rivenga. Per carità. Però meno male ne ha tirato le penne, dai, è andata bene. E adesso sembra, no, la passione ce l'ha sempre, però per adesso ha cambiato, adesso è passata la bicicletta, la corsa. Purtroppo, la moto bisogna la carica. Oh, per gente che sempre non si è mai fatta, non si è mai fatta nulla, è puro. Ci vuole un po' di fortuna, che non è solo essere bravo a guidare, devi stare attento anche agli altri, non solo a te stesso. Ah, che su bacchiderma te ne gaginato, dicei bideggia, bisogna stare un bel attenti. Qual è il tuo bacchiderma? E sono gatto di moto, non si manne. Ah, sì, sì. No, vabbè, c'è gente che deve tagliare la strada e tu inizi a volare in aria. Sono attenti. Te pure vedi il giorno in baia, peggio di me. È un po' così. Bisogna dare molta, molta attenzione con quelle moto, molta. Ci vuole attenzione a tutto, dai. Dai, vi saluto che anch'io domani lavoro presto. Domani ci ritorna al tram tram. Un abbraccio a tutti e due, a te, a Luca e a Claudio, se ancora l'ascolto. Ci sentiamo le prossime, dai. Cappa, dai, ciao ciao, buonanotte. Buonanotte anche a te, Luca. Che io chiudo, ciao ciao. Ciao ciao. Amore.